lontano indietro nel passato, ho visto come ero tanto tempo fa. Sentivo gli occhi su di me mentre provavo a dire a tutti che vorrei una seconda occasione per mostrare il mio valore, quel che sento dentro me. Vorrei poterci riprovare, solo una seconda occasione per spiegare a tutti quanti che io sento il fuoco dentro me, da oggi ci sono anch'io. Così arrancavo, cercando di recuperare, provavo ad essere uguale agli altri, ma cadevo in basso sempre più giù, urlando ancora a tutti quanti che vorrei una seconda occasione per riuscire a superare i timori dentro me. Vorrei uscire e provare ancora solo una seconda occasione per mostrare a tutto il mondo che sono cambiato adesso che prendo la vita così, così com'è, com'è, così prendo la vita così, così com'è, com'è, così prendo la vita. Nuove emozioni dentro me, non mi ero mai sentito così. Apprezzo cose di cui non mi ero accorto mai. Sono sicuro adesso che vivo una seconda occasione, senza limiti e catene, con lo sguardo avanti e non mi pongo troppi problemi. Solo una seconda occasione che mi libera dal male che sentivo dentro me. Oggi vivo un giorno migliore. Solo una seconda occasione per mostrare a tutto il mondo che mi sento meglio adesso che prendo la vita così com'è. Mi sono reso conto che il mondo sono io. Il mondo sono io. Il mondo sono io. Il mondo sono io. Sono io. Sono io.